Cara mia bellissima chiesa, come va? Stiamo bene? Allora, per iniziare, voglio dire questo. È una cosa che, diciamo, non si può proprio dire dal palco, però in questa circostanza posso dirla e ha tutto un significato, un sapore. Oggi spero che siamo tutti negativi. Ma non negativi, negativi al virus, non negativi, positivi ma negativi. Così dobbiamo essere noi, positivi ma negativi, va bene? Però ti impurfanare, sate, eh? Cioè non è che voglio dire che la Chiesa, non è che dobbiamo piangere, dobbiamo ridere alla Chiesa. Ma vediamo se... Allora, iniziamo da questo. Settimana scorsa abbiamo fatto la presentazione di mio figlio, Riccardo. Oggi non c'è. Riccardo e Nella non ci sono perché Riccardino inizia, ha avuto la sua prima febbre, piccolina, cuoricino, però non mi ha fatto dormire ieri e non mi ha fatto dormire oggi, è un messaggio. E, insomma, è stato un momento un po', tant'è vero che in tutto questo momento, in tutto questo, voglio iniziare proprio così un flash sul titolo di questo messaggio, che è un titolo che racchiude poi quello che sarà comunicato. Il titolo è questo. Cioè che il titolo lo troverà il papà di Davide Abram, cioè Vito Marinelli, perché io non lo sono riuscito a trovare un titolo a questo messaggio, quindi grazie Vito, perché sono sicuro che troverai un bellissimo titolo, poi se non lo vuoi trovare puoi lasciare questo, per me va bene lo stesso, è un omaggio al tuo lavoro. Però questo per farvi capire che insomma sono stati dei giorni un po' così, il bambino, quindi oggi non ci sono, per questo motivo mi sta seguendo in streaming, ciao papà, bello, non piangere però, fai il bravo papà, ciao amore. Faccio l'occhiolino, non so se si vede. Comunque, stavo dicendo, abbiamo fatto la presentazione di mio figlio, un momento meraviglioso, perché devo dire, è andato tutto bene. Il pastore ha fatto una bella preghiera, sono contento veramente che il pastore pure lo ha toccato, con delicatezza lo ha toccato, così è arrivata bene l'unzione, grazie pastore, veramente. Niente da ridire, le parole giuste, insomma, è andato tutto bene. Però io una cosa, indossavo un cappello. No, non so chi se lo ricorda, probabilmente non se lo ricorda nessuno, indossavo un cappello. E dico, il giorno della presentazione di mio figlio, pastore, uno dei giorni più importanti della tua vita. Ce li dà fare? Uno dei giorni più importanti della sua vita. Anziché venirmi a dire, Mario, sono contento, abbiamo raggiunto questo. Sapete che cosa mi ha detto? Non me la ricordo. Ha detto, Aspi, ma la vuoi finire con questi cappelli? Dice che ogni volta che io vengo in chiesa mi metto un cappello particolare. Allora io, siccome non volevo mancare, pasto di rispetto, oggi ne ho portato qualcuno. Così mo decidiamo insieme quello che indosserò. Allora, questo l'ho indossato prima, questo me l'ha fatto Bartolo. Bartolo fa i cappelli, per chi non lo sa, pubblicità, stava prima Bartolo. E l'ho indossato prima, quindi mo cambiamo. Un altro. Davide, se mi riaccendi l'applausometro sempre per favore. Allora, io indossavo questo. Quindi, a chi piace questo cappello? Un applauso, così valutiamo. Pastore, pure alla moglie. Giorgia, va bene? E tu mo consigli pure, mi raccomando. Dagli il consiglio che il cappello. C'è anche questo. Applauso. Ma vabbè, so capito, dai, non un wet che chi... Ho portato un altro, ma mi sembra proprio chiaro e scontato che voi mi vogliate vedere con questo, quindi predicherò con questo. Grazie. Grazie Chiesa. Se muove li regalo. Rimetto sulla sedia, non li acchicchio. Allora, mo, che poi volevo dire che se mi volete fare un regalo, un cappello e ve ne uscite facile. Quindi, se non vi ricordate più niente del messaggio di oggi, basta che vi ricordate questo. Se mi volete fare un regalo, un bel cappello per Mario. Mario Pingitore, mi trovate su tutti i social, potete contattarmi, vi do l'indirizzo, non c'è problema. Quando volete, a disposizione. Qualunque misura va bene, mi faccio crescere i capelli, lo stringiamo, si trova una soluzione, non è un problema, ce la faremo. A vostro buon cuore, dico, al vostro buon cuore. Mo, lasciamo le cose serie. Allora, iniziamo da un bellissimo verso che che mi ha ispirato tanto. E io l'ho predicato anche un paio di settimane fa nelle Upside Down, un verso proprio che non sinceramente l'avevo letto, però non mi era mai... è questo qua. 1 Timoteo 2,4 dice, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità. Ora, il quale si riferisce al Signore, quindi si può leggere anche semplicemente in questo modo. Il Signore vuole, quindi il Signore vuole, che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Ora, questa non è una frase mia, è scritta sulla Bibbia, è un desiderio che il Signore realmente vuole. E se noi siamo in chiesa, cioè questa frase non ci è del tutto nuova, sappiamo qual è lo scopo e l'obiettivo della chiesa, dell'essere chiesa, di venire, di partecipare, di essere famiglia. Lo scopo non è solo quello di darci un bel messaggio, di vederci, di riunirci e poi di tornare a casa ed essere sempre le stesse persone. Lo scopo è quello di effettivamente salvare delle vite umane e farli conoscere la verità. Cioè la verità è che Gesù li ama e Gesù è morto per i loro peccati. Quindi le persone sono salve, possono godere di questa salvezza. Questo è il nostro scopo. Però oggi, cioè diciamo, questo già basta per il messaggio, no? È già un messaggio bello di spessore. Già dire un messaggio così, un verso così, già è bello. Però oggi facciamo una cosa diversa. Oggi facciamo, non dico un gioco, è un'attività, tipo che io mi impegno ad essere sincero con voi, però voi mi dovete promettere che vi impegnate ad essere sinceri con me. Ma fa? Ci siamo? Lo facciamo? Mi piace. Allora iniziamo da questo. Voglio raccontarvi un po' come sto, perché... Tante volte, quando nell'immaginario un po', io mi metto seduto, perché la maggior parte del tempo io, la domenica, la passo seduta alle sedie, cioè una volta all'anno predico, due volte, non è che sono sempre sopra palco a predicare. Quindi io, quando mi siedo da là e vedo il predicatore qua, stava Noemi, quando è stata la settimana scorsa o 2 settimane fa? Due settimane fa. E stavi tu invece? Stavi tu, bellissimo, tutte Noemi, il capi, stai Noemi. Non c'è sta Noemi, pastore. Non c'è sta Noemi, pastore. Vabbè, comunque, tu li vedi, sai, belli, dici, ma è quando parlano, pure io. Mi metto io in mezzo, pure, dici, ma vedi come sta? E c'è il fuoco, lo Spirito Santo proprio. Non è così. Lo dico proprio semplicemente, non è così, perché sapete come sto io? Io non sto bene, cioè io non è che sto bene, mo mi siedo un po', ma mi sa venire qualche giramento di te. Io non è che sto bene, cioè, mo vi racconto un po' che cosa sto vivendo. Sono in un periodo, cioè io sono un ragazzo molto organizzato nella mia vita, cioè mi piace avere una routine, il mio calendario, i miei obiettivi che devo centrare, perché poi se non li centro mi sento sconfitto, mi sento mancante. Quindi ho questa routine serrata nella mia vita. Chiaramente l'ho potuta avere fino a qualche mese fa. Poi tutto, penso non solo per me ma per tutti, è stato messo in discussione, si è rotto. Cioè non c'è più una routine come quella che avevamo a gennaio o come quella dell'anno scorso. Tutto si è sgretolato. E mi sono reso conto che perdendo questa routine, questo fare le cose, mi ha fatto sentire un po' come se mi mancasse il terreno sotto i piedi. Cioè, sapevo che c'era qualcosa da fare, ma non sapevo cosa dovevo fare. Sentivo gente che mi parlava il virus, così, colà, e non sapevo cosa rispondere. In tutto questo disequilibrio, in tutta questa instabilità, poi chiaramente per me il 2020 è un anno bellissimo, sono diventato papà, è nato Riccardo, quindi una gioia immensa, però è chiaro che la nascita di un bambino in un equilibrio familiare, già precario per via di tutti questi cambiamenti, è chiaro che ancora di più mi ha destabilizzato, ha rotto un equilibrio proprio, la mia persona, diciamo, la mia linearità. E, questo è quello che sto vivendo. Vivo un momento in cui, se devo dare un aggettivo, io dico instabile. Non mi sento ben piantato per terra, perché non mi sento forse padrone della mia vita. Non lo so, non so cosa sta succedendo, però vivo questa instabilità. Io sono stato sincero con voi. Ora, mi piacerebbe, perché io penso che la cosa più giusta da fare in queste circostanze sia pregare, che voi possiate pregare per me. Io ve lo chiedo, però non penso di essere magari l'unico che ha necessità di questo, che vive un'instabilità o non si sente proprio, diciamo, in forma, va? Quindi se tu pensi di essere tra queste persone, io voglio chiederti di alzarti in piedi, così possiamo pregare. Diciamo, non è che ci abbiamo tanto tempo, quindi se senti di essere un po' instabile in questo momento, alziamoci in piedi. Io mi alzo. E le persone che sono attorno possono pregare, chiaramente senza avvicinarci troppo, possiamo imporre le mani, però preghiamo, perché la preghiera fa la differenza. Non è una predica che fa la differenza, non saranno le parole che vi sto dicendo, le risate che ci stiamo facendo, ma la preghiera fa la differenza, il resto sono chiacchiere. Allora preghiamo, facciamolo con fermezza. Dio può darci nuova stabilità, Dio può cambiare la nostra vita. Sì, Signore, noi cacciamo via in questo momento ogni paura, ogni ansia, ogni pensiero negativo, tutto quello che ci sta ingannando, perché questa è la verità, forse siamo ingannati. Noi riconosciamo però adesso, in questo momento, che Tu sei la verità e vogliamo proclamarla a noi stessi, alla nostra vita. Tu sei la verità. In Te possiamo stare saldi, in Te possiamo stare fermi, in Te possiamo credere e Tu non ci deludi mai, Gesù. Non sappiamo cosa succederà, non sappiamo cosa vivremo, non sappiamo niente, ma sappiamo una cosa, Gesù, che tutto ci potrà essere tolto, ma Tu mai, Gesù, Tu sarai sempre per noi e sarai sempre con noi. E Ti prego che questa possa essere la verità sulla nostra vita, che nessuno possa togliercela, Gesù. Mai nessuno. Lo prego nel Tuo nome potente, Signore. Amen. Amen. Amen. Questa è la cosa più bella da fare quando siamo in difficoltà. Quando c'è qualcosa che non va, la cosa migliore da fare è ammettere. Quello che io ho fatto è un'ammissione. Cioè io ho ammesso che c'è qualcosa che non va. Ho ammesso che so di poter stare meglio, so che ho vissuto periodi migliori di questo. Di certo non la vedo come la mia morte, non la vedo come qualcosa che mi condanna, ma la vedo come una sfida per potermi mettere in gioco. E io questo è quello che insieme a ciascuno di voi oggi voglio fare, cioè mettiamoci in gioco, usciamo da questa situazione. Basta far finta di niente, basta far finta che vada tutto bene, perché alla fine chi ci va a perdere siamo proprio noi. E noi possiamo invece riscattare la nostra vita. E io voglio questo oggi, io me ne voglio andare riscattato. Avasti, sì, David. Comunque, dopo, diciamo, nella mia mente, io vivo un percorso, un processo. Quando vivo momenti così, diciamo, seguo degli step. Quindi il primo passo è ammettere che c'è qualcosa che non va. E un detto antico, che sono quelli che personalmente adoro, dice: già quando riconosci che c'è qualcosa che non va, già hai fatto una cosa buona, già hai individuato e ti trovi già in una posizione avvantaggiata rispetto a quella che vivevi prima. Ho fatto 10.000 passi oggi, solo su questo palco li ho fatti però. Comunque, il primo passo è la missione. Il secondo passo, in realtà, sono due passi insieme. Sono la confessione e la preghiera. La confessione e la preghiera hanno una potenza incredibile, secondo me, e non sono io a dirlo, ma la Bibbia dice in Giacomo capitolo 5, versetto 16: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. È vero, confessare gli uni agli altri, non tenere tutto per te, ma dire che c'è qualcosa che non va, dire che hai bisogno di aiuto, dire che sto vivendo questo problema, come posso uscirne? Dammi un consiglio, dammi un aiuto, preghiamo insieme, oppure ho commesso questo errore, cosa posso fare adesso? Confessare quello che c'è dentro aiuta, perché tu stai cercando degli alleati, ecco, questa è la verità. Cioè, io ti consiglio, se c'è qualcosa che hai dentro che sai che devi dire, c'è qualcosa di sbagliato, non sto qui mo a soffermarmi sul significato della parola peccato, perché le cose sbagliate sappiamo quali sono, sia dentro che fuori dalla Chiesa. Cioè, è un concetto che anche le persone che sono fuori conoscono, non lo conosciamo solo noi. Quindi se stai facendo qualcosa di sbagliato, che ti appesantisce, è il momento di confessarlo a qualcuno. Non dico che devi venire a me, vai al pastore, vai a Giorgia, insomma. Ma puoi andare da tua madre, da tuo padre, da tua moglie, da tuo marito, dal fratello, dalla sorella, dallo zio, dalla zia, dal procugino, dal cugino, dalla prozia, dalla trisavola, che sta un kid che la tiene la trisavola, non ridete. Da chiunque, vai da qualcuno e butta fuori, liberati. È importante liberarsi di queste cose. Io un consiglio che vi do, pratico per me, è stato questo. Qualche anno fa avevo delle persone, questa è una cosa che non faccio più, però vorrei tornare a vivere. Qualche anno fa avevo delle persone che erano dei riferimenti proprio cardine per me. Penso a Sara Marinelli, che era la mia responsabile dei giovani. Penso ad Antonio De Nicolo, ma pigliazzo tuo vrazzo, detto vieni con me, ti porto io. E mi ha aiutato tantissimo, pure il pastore Mirko. Davide, pastore Mirko, quando ha lavato da capo mi ha fatto. Poi penso anche a Fabio, che è stato il mio capogruppo. Quante chiacchiere ci siamo fatti, le cene piccanti, di avuicchi, tutto pesciato, vabbè, non mi soffermo, mo. Che erano lacrime tra peperoncino e peccato, non si capiva più niente. Karen Genchi, non è che non ci sta più, è che sta lontana, allora la saluto così io. Quando è Karen? Persone che erano dei riferimenti per me. E quindi io che cosa facevo? Quando mi sentivo che qualcosa non stava andando e stavo per commettere un errore, una parola, un atteggiamento, un gesto, qualcosa di sbagliato, pensavo, mi vedevo già le calate di Sara, così, qua, la capa che sì mi ha fatto, quante calate mi ha dato, però mi sono servito. La riprensione giusta di queste persone che lo facevano per il mio bene, lo hanno fatto per il mio bene, però tu pensare di sbagliare per poi dover andare a confessare, tu ci pensi due volte prima di sbagliare. Non è, perché se io sto parlando a una chiesa che vuole crescere, che si vuole migliorare, che si vuole sfidare, vuole diventare migliore di quella che è stata e che è, perché questo è quello che Gesù vuole, che noi viviamo un percorso di crescita, Allora tu devi pensarla questa cosa, cioè devi avere una persona alla quale tu devi dire tutto. E tu, se sai che gli devi dire che hai rubato, o hai guardato un'altra donna, o hai fatto un altro peccato, e secondo me ci pensi più di una volta, perché sai che hai qualcuno a cui dirlo. Non perché non temi il Signore, però quando lo vedi in faccia qualcuno e gliela dici nei denti quella cosa, è diverso. Quindi questo è il mio consiglio, trova qualcuno col quale aprirti, che sia un punto di riferimento per te, che conosca tutto. E questa è la parte della confessione. Poi c'è la parte della preghiera, che è praticamente la stessa cosa, cioè nel senso, basta, basta con queste preghiere a cantilena, dico io. Signore, aiutami, ti prego. Io sono il primo che le fa, ripetitive, sempre per anni a chiedere la stessa cosa, usando sempre forse anche le stesse parole, lo stesso tono di voce. Basta, possiamo essere sinceri col Signore. Cioè con Gesù, Gesù ci conosce. Ma Gesù non è che non li sa gli errori nostri, i nostri peccati, Gesù li sa prima che noi li commettiamo. Però io mi sono reso conto, questa è una cosa, un'esperienza mia personale, che nel momento in cui io prego sinceramente, come sto parlando a voi, in questo stesso tono, io parlo a Dio, quando riesco a farlo, perché non è che ci riesco tutti i giorni, però quando io lo faccio e mi apro a Dio, mi arrabbio con Lui, certe volte litighiamo, però c'ha sempre ragione, non un sacco mi è stufato. Quando succede questa cosa, io sento che le mie parole a un certo punto di questi discorsi non sono più le mie, diventano le sue. Cioè, perché tu stai buttando fuori qualcosa di sbagliato, di corrotto, di negativo da te e stai lasciando spazio allo Spirito Santo, che ha spazio di entrare in questo modo. Non ha spazio di entrare se tu preghi in maniera retorica, ha spazio di entrare se tu veramente ti apri a Lui, dici: Signore, com'ha fa? Cioè io non voglio essere più così, aiutami, io voglio cambiare, mi fa schifo sta cosa, basta, sono una persona diversa, non valgo così poco. Queste sono le parole che Dio lo sa che tu ce li hai dentro, non lo dobbiamo fare davanti a tutti. Appartate, non lo fate niente, cioè nessuno ci deve vedere, sono cose nostre su, è un'intimità che si crea con Dio, però se tu lo vuoi, e quindi questa è l'importanza della preghiera, è proprio in questo, nell'avere sincerità con Dio. E quindi noi abbiamo vissuto la ammissione, mia moglie mi ha corretto stamattina, dice la missione, sembra la missione, la ammissione, la confessione, la preghiera. Quando tu, diciamo, fai queste tre cose, poi io faccio la prova per vedere, ok, quello che ho fatto porta frutto. Quindi faccio la prova, no, né dei meloni né del nove, era un trabocchetto. Faccio la prova di Galati 5.22, che dice, oh, Davide, non mi tradire proprio adesso, che... Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Questo succede quando lo Spirito Santo è dentro di noi. Quindi io cosa faccio? In testa, diciamo, immagino questa tabella qua, dove da una parte ci sono i frutti che lo Spirito Santo deve portare. Cioè, se io ho fatto questo percorso, a un certo punto il Signore, qualche cosa, lo Spirito Santo di me deve portare un frutto, se no vale la pena che l'ho fatto. Ci deve essere un cambiamento anche nelle azioni che compio. Quindi da una parte ci sono i frutti dello Spirito Santo e dall'altra ci sono dei frutti sempre che non sono di un altro spirito, cioè non sono dello Spirito Santo. Quindi sono dei frutti che stiamo portando che appartengono a qualcun altro, che non hanno natura, la natura di Dio, hanno una natura diversa. Io quando l'ho vista, cioè quando me la immagino questa lista, effettivamente io su due piedi, pensandoci, io sono impaziente. In questo momento riconosco che sono impaziente. Per me la cosa deve succedere subito, veloce, non voglio aspettare, la devo vedere mo, no domani. mo. E poi è chiaro che quando diventi impaziente e vedi che quella cosa non è successa, inizi ad arrabbiarti, quindi subentra l'ira, magari ti scappa una parola di troppo, diventi aggressivo. E questo è quello che io vivo. Cioè, io veramente, in alcuni giorni, sono così. Ci sono dei momenti in cui mi arrabbio. Perché non vedo che è successa quella cosa. Ma in quel momento mi rendo conto che non è lo Spirito Santo che sta guidando la mia vita. E quindi ammetto di nuovo, mi confesso di nuovo e prego di nuovo. Questo è quello che effettivamente porta trasformazione. E voglio chiederci, senza identificare o diciamo esprimere, se voi riconoscete che uno di questi frutti sulla colonna di destra appartiene a voi, cioè vi è capitato di vivere questo, preghiamo, preghiamo, ma proprio, ma preghiamo, come diceva quella De Caro, De Caro, ma proprio, preghiamo. Quindi se riconosci, alzati in piedi e viviamo un altro momento di preghiera, come quello che abbiamo vissuto prima. So già un minuto fuori dal tempo della predica, quindi bel, se ci dobbiamo alzare ci alziamo adesso, se non ci dobbiamo alzare non c'è problema. Io prego comunque. Tanto alla fine siamo tutti sulla stessa barca, amici, fratelli e sorelle. Magari in questo momento, anziché far pregare chi ci attorno, ho pensato, possiamo pregare per noi stessi. Quindi se lo vuoi fare ad alta voce, lo fai ad alta voce. Se lo vuoi fare in testa, fallo. Come ti senti libero di farlo, fallo. Però chiedi a Dio di intervenire, di sradicare e di mettere, ok? Gesù davvero può togliere quelle cose dalla nostra vita. E io so che tu lo hai vissuto, io l'ho vissuto, io so cosa vuol dire quando il Signore ti libera, so quel senso di libertà proprio che ti dà. Però mo devo fare non è che quando, mo l'ho detto pure prima questa cosa, per questa domenica e per quelle future, quando sono seduto, non è che quando viene Jonathan con la tastiera ci metti macchiaggio. Jonathan, fammi una base più allegra, per piacere. Put fai una cosa più movimentata. Ma dai, fa. Luce. Andrei, rialza la luce. Oh. Cioè è più. È più bello. Cioè il Signore, anche col sorriso in faccia, le fa lo stesso le cose. Quindi, poi porta gioia. La gioia è un frutto dello Spirito Santo. Quindi è importante che siamo gioiosi anche. Commosso per concludere. Io di solito nelle mie prediche metto sempre o un'immagine o un video. Gli Upside Down lo sanno benissimo, addirittura negli Upside Down ho fatto vedere il film venerdì, proprio tutto video ho fatto, io non so di nulla, tutto video, però gli piace, cioè mi piace mettere immagini o video. Quindi stamattina ho detto non poteva mancare un'immagine e voglio condividere con voi questa immagine qua. È un'immagine molto molto importante che ci deve far riflettere. Ci deve far riflettere. Perché io la prima riflessione che ho fatto quando ho visto questa immagine è: a questo l'hanno fregato. Gli hanno venduto la scala che non funziona. Questa è stata la prima riflessione che ho fatto. Cioè, come si fa a comprare una scala così? Cioè, ma devi essere pazzo. E invece Kud è dritto. Quello è uno che è perspicace. E, sapete cosa ho pensato seriamente quando ho visto questa immagine? Ho pensato che queste possono essere le domeniche, i pioli, e questa può essere la settimana, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, e quasi alla stessa altezza, sì. Alla fine, ok, io ho espresso il mio percorso, quello che io faccio per venire fuori da situazioni in cui non mi sento a mio agio, in cui so di poter cambiare. Però sapete, il nostro volere, il nostro agire dipendono solo da Dio. Cioè il fatto che tu desideri uscire da una situazione può dipendere da te, ma dopo un po', se non è Dio veramente la fonte di quel desiderio, muore. E ecco perché questa scala rappresenta il tempo personale che tu puoi passare con Dio. Se tu passi ogni giorno, io non dico il tempo personale, prima facevo tempi personali di mezz'ora, 45 minuti, che per alcuni possono essere tanti, per altri possono essere pochi, per me era il giusto. Oggi non posso più farlo, perché con mio figlio, con lavoro, con tutti gli impegni, con tutto quello che vivo, sarei bugiardo a dire che faccio 45 minuti di tempo personale. Però sono sincero nel dire che io almeno un verso al giorno lo leggo. Magari neanche riesco a pregarlo, ok? Però io almeno un versetto al giorno lo leggo. Quel minuto che passi con Dio, quei 5 minuti, quei 30 secondi, quel pensiero che tu rivolgi a Dio, fa parte di questa scala, ti aiuta a costruire una stabilità e un rapporto con Dio stretto, forte. Perché? Perché è importante che noi abbiamo un rapporto stretto e forte con Dio. Filippesi 2:13 dice che è Dio che produce in noi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. È Dio che produce qualcosa. È Dio che produce in te, nel momento in cui tu investi del tempo con Lui, il volere e l'agire verso un cambiamento. Ma se tu non passi il tempo con Dio e stai male e dici ok, io vado ad ammettere questo, confesso questo, prego questo, ma non sono mosso da Dio dentro, non si mi fa nulla. Cioè torni di nuovo punti a capo. È Dio che lo produce, è Dio che in noi ci dà quel senso di riscatto, di volerci migliorare, quel percorso di santificazione. Solo con Dio lo possiamo vivere. E abbiamo aperto, perché poi mo, diciamo, uno dice, si può anche chiedere chi è stato attento, diciamo, dice, vabbè, questo è il verso che ha detto all'inizio, non ha detto più, cioè è finito là. Il primo verso, quello in Timoteo, che dice: il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Gruppo Lodi, puoi venire? Vieni. Oh, Ruben, e via. Si stava là. Prego, prego. Accomoda. Sono belli, però. Il Signore vuole che tu, che poi sono belli, che fanno tutto zitto zitto, Il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Allora io mi chiedo, questo è l'anno, come abbiamo capito comunque anche da gennaio, dell'uno in più, uno in più, cioè che ciascuno di noi ha questa, chiamiamola responsabilità, missione, verso un'altra persona, di parlargli di Gesù e di rispondere a questo desiderio, perché Dio lo vuole, di portare conoscenza, salvezza nella vita delle persone. Però c'è una parola in questa frase, che è tutti. E noi quando abbiamo letto questo verso all'inizio, abbiamo pensato solo alle persone fuori. Io quando l'ho letto ho detto, sì, questo è un verso evangelistico, questo vuol dire che il Signore mi sta chiamando ad andare fuori e a parlare a tutti quanti della verità, e che la mia responsabilità è che tutti vengano salvati. E il Signore mi ha detto, e tu sei salvato, ma tu la sai la verità? e mi ha dato le calate di Sara Marinelli, quelle stuc. Forse l'uno in più che devi cercare quest'anno potresti essere proprio tu, perché ci siamo un po' persi. È un anno particolare, lo sappiamo, non serve ribadirlo. Forse ci siamo un po' persi, però ci possiamo ritrovare. Dio sa cosa deve fare, Dio sa qual è la verità. Dio ci vuole aiutare a venire fuori da zone di instabilità, ad aiutarci ad avere più pazienza, ad aiutarci in base a quelle che sono state anche le nostre preghiere. Dio lo sa. E magari quell'uno in più, ribadisco, potresti essere tu. Vivi un tempo col Signore in cui lo comprendi davvero. Crea la tua scala. Non creiamo incontri settimanali. Anche un minuto va bene con Dio. Non ci allontaniamo da Dio. Carmine, questo lo puoi portare. Finito. Non ci allontaniamo da Dio. Dio vuole fare grandi cose con me e con ciascuno di noi. Vi voglio bene. E... Pastor, dai, vieni.